maledetta sveglia che avrei da suonare, è troppo presto, ma la vuoi piantare? Forza giù dal letto, proverò a contare, tanto non c'è verso di potermi alzare. C'ho un sonno che mi si porta, farei meglio a dormire di più la notte, ma la notte è troppo corta. Mi ero alzato per un attimo e poi sono ricaduto giù e non ho più scuse. Ora chiuso in bagno, cerco di lavarmi con un po' di impegno. Niente colazione, non ne resta il tempo. Che disperazione, la chiusura lampo. C'ho i vestiti che non vanno più, farei meglio a seguire un po' la moda. Invece spendo tutti i soldi che ho per tutte queste cose futili. Ma come mai i racconti tuoi sono sempre la stessa storia? Ma tu lo sai che non mi suona più di doverti controllare. Se non ti svegli da solo non so come potrai ancora crescere un po'. Sei d'accordo? Di impazzire, standomi appresso, ci si può restare. E tu quel cassetto non fai che svuotare, un posto per i sogni mi vorrai lasciare. Ma con quel caratterino che hai, sento già i miei sogni andare via svaniti. Se me li pieghi poi si spezzano, sai, il tempo corre e tu non scordi mai. Ma come mai i racconti tuoi sono sempre la stessa storia? Ma tu lo sai che non mi suona più di doverti controllare. Se non ti svegli da solo non so, se non ti svegli ancora un bel po', come capirò. Svegliati.